La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле, вершок за пять минут, ну как дойти до цели. Oggi è Pasqua. Come prima cosa vorrei scusarmi con quelli che ci ascoltano in replica il sabato alle 23, perché sabato 31, a causa di un errore tecnico, sono stati mandati in onda dei brani sbagliati. È Pasqua. Fra tutte le feste religiose che spesso subiamo con insofferenza, invasioni di parenti, obblighi, mangiate non desiderate, Pasqua mi è la più simpatica di tutte. Perché coincide col risveglio, con la fioritura, è la festa della risurrezione. Anche per i credenti credo più triste il Natale, perché sì, nasce il bambino, il Salvatore, nasce il Messia, però poi si sa già come andrà a finire. A Pasqua invece il sacrificio è consumato. La tomba si spalanca e il Cristo vola via libero, torna a casa sua, in cielo. Dopo questo passaggio non in dolore, nello stato umano, dopo avere sperimentato sul suo corpo la crudeltà di una creazione che finisce con la morte. Anche per chi come me non è credente, è bella questa festa della speranza, questa festa del ritorno. A parte poi che se c'è una cosa di cui in questo paese, in questo momento, avremo bisogno è proprio una resurrezione, in questa bituminosa situazione politica in cui la crisi sembra una sferza per buttarci nel recinto come martiri della finanza, come vittime designate, per farci fare a brani dalle banche. E intanto nell'attesa che cosa faremo? Ci deruberemo tra di noi, compreremo delle mascherine, delle pistole di legno, andremo a farci degli appartamenti vicino a casa, ci ruberemo l'uno con l'altro. Scherzo, ma faccio male perché veramente non c'è niente da ridere. È una festa della resurrezione, ma nessuno risusciterà tutti quelli che si sono suicidati per questa crisi. Piccoli imprenditori, carrozzieri, disoccupati, affamati, che sono le vittime di questa strage, i carcerati che continuano ad ammazzarsi perché nulla cambia delle loro condizioni schifose, se non in peggio, gli operai che muoiono più che mai sul lavoro perché questa stretta non invita certo a vigilare sulle norme di sicurezza. Io ascolto sempre con tutte le mie orecchie Oscar Giannino e se è preoccupato lui che sa, figuriamoci io che ho soltanto paura. Però io sono sinceramente dalla parte della vita e per vita intendo piena, con il libero esercizio della mente, della passione, della facoltà di scelta, e sto attenta a qualsiasi piccolo segnale di resurrezione. E ne ho trovato uno in un articolo di Nanni Del Becchi, apparso sul Fatto Quotidiano il 27 marzo, e l'ho tenuto da parte per leggerlo qui. Del Becchi si ribella a una delle forme di cretinismo delle emozioni, così diffuso oggi, la mania per cui gli psicologi ti vogliono spiegare come vivere, come devi fare per vivere, inscatolando la tua libera reazione davanti alle prove dell'esistenza, come se con un manuale il nostro stato fosse risolto. Pretendono di farti ingoiare queste guide Michelin della vita. L'articolo di Del Becchi si intitola Il manuale dell'orfano e si riferisce a un articolo apparso sul Corriere della Sera, dove la giornalista, che è anche una psicologa, ti spiega come attutire il trauma di un bambino che ha perso il padre. Io gli sono grata a Del Becchi per averlo scritto, perché anch'io ruggisco e fremo davanti a queste sciocchezze pericolose. Ogni anno elimino dalla libreria centinaia di manuali che le case editrici si ostinano a mandarti. Manuali su come soffiarsi il naso, per esempio. Questo spreco di carta, di forza editoriale, di macchina pubblicitaria, per un nulla dannoso, perché il nulla non è mai neutrale, un nulla dannoso che contribuisce alla cretinizzazione disumana di noi tutti. Ecco l'articolo di Del Becchi, si intitola Il manuale dell'orfanello. Capita che sul Corriere della Sera la psicoterapeuta Federica Normando dal titolo non negare il lutto né enfatizzarlo, così il ricordo diventerà dolce. Certezza asseverativa, dall'occhiello ancora più rivelatore. Come raccontare la tragedia? Già, dice Del Becchi, perché quello che la Normando si propone nel suo breve pezzo è proprio dare una serie di consigli a chi dovesse trovarsi in questa penosa situazione. Virgolettato, non c'è un modo per rendere la morte di un padre poco dolorosa per il suo bambino, esordisce il pezzo. E fin qui siamo tutti d'accordo. Tuttavia, prosegue la terapeuta, si può rendere meno disperante l'essere orfano. E lei ci spiegherà come, ricomincia il virgolettato. È bene che il bambino partecipi al funerale, che percorra insieme alla famiglia le tappe dell'addio. Bisogna raccontargli che cosa è successo. Bisognerà che il ricordo del papà divenga un compagno dolce, non invasivo, eccetera, eccetera. Lettrici e lettori vedovi sono invitati a leggere attentamente questo manuale dell'orfanello e a prendere nota. Ma davvero è possibile redigere un decalogo su come si raccontano tragedie tanto individuali, oltretutto dalle colonne di un quotidiano? Nel dubbio, e dubbio è un eufemismo, si impongono almeno due osservazioni. Difficile trovare un'epoca più nevrotica di quella attuale. Eppure assistiamo ormai da anni alla deriva montante della psicologia bricolage, del fai da te dell'anima. E qui poi se la prende con un'altra cosa che è un'altra mia bestia nera, l'autostima, questa idiozia totale che si sono inventati e che serve soltanto a trovarti magnifico pure quando sei abominevole. Continuo con Del Becchi, una scuola che discende da maestri americani del pensiero e da bestseller di massa, come l'americano Leo Buscaglia, e si materializza nelle pile di manuali self-help che intasano le librerie. Consigli e regole prêt-à-porter per qualsiasi circostanza o sfida riservata dalla vita, per venire incontro al desiderio di ricette facili, gustose, economiche. Stessa cucina per tutti. Si tratti di montare la felicità come se fosse un mobile IKEA o di smontare il dolore del bambino, del padre o della madre, come se il mobile dovesse tornare nello scatolone. Peccato che non esistano il bambino, il padre, la madre. Esistono quel bambino, quel padre, quella madre. E quando ci si riferisce a casi tragici particolari, la banalità generica è proprio fuori luogo. Lo psicologo tracima e sonda, travalica. La linea di demarcazione tra il tuttologo e l'ufologo si fa sempre più labile. Grazie Del Becchi. Sempre per festeggiare questa giornata parliamo di baci. Leggo una serie di idee sul bacio che mi sono arrivate da parecchie parti. A me piacciono solo i baci. Il resto si fa perché si usa. E poi mi ricordo da ragazzini quando si scopriva per la prima volta e ti dicevano le amichette come ci si baciava. E tu dici, baciarsi con la lingua? Mai! Perché quando te lo spiegavano pareva orribile. Ah, poi ai fatti. Ci si baciava dopo la scuola, nei parchi. Un tratto arrivavano questi carabinieri a cavallo, questi cacciatori di piccoli amanti. Ci sovrastavano da lassù, fierissimi d'avere mortificato due adolescenti. E allora, da ragazzini, per sfuggire ai carabinieri, si andava a baciarci al cinema. Perché allora non c'erano tanti posti e per fortuna a casa non si poteva fare. E poi non si vedeva il film. E dovevi fartelo raccontare di corsa da qualcuno che l'aveva visto veramente, perché sennò i genitori ti interrogavano. Cinematograficamente è bellissimo il bacio di Notorious, sterminato. Questo bacio per la strada tra Ingrid Bergman e Cary Grant, con la folla che si raduna attorno a questi due instaccabili amanti, anticipando, ma con grazia, lo svuotamento dell'esibizionismo moderno. Una cosa interessante poi è che le puttane non baciano, perché la vera intimità è quella. E poi, intervistando Genevieve Macaping, la mia amica del Camerun, abbiamo scoperto che non è pratica universale come noi crediamo, perché lei ha detto con gran chiarezza: io ho imparato a baciare in Europa, da noi mai. Una cosa del genere fa schifo. È interessante il bacio nella fiaba, perché nella fiaba risveglia dalla morte. Altre volte invece la porta. Il mio bacio preferito rimane quello di Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista col vampiro, il film di Neil Jordan, dove questi due vampiri si baciano e vengono catapultati dalla forza del bacio, si mettono a volare in cielo. Sul bacio darei la parola a un poeta e vi faccio risentire il sonetto di Marco Fabio Apolloni in romanesco dal suo libro Il puttanire arcadico, dal titolo Dove vanno li baci?

così dicendo, come suo solito, si leva rapidamente in volo per andare a raggiungerla. E lei lo vede dalla finestra, le torna il colore sul viso, si alza sul letto, direttamente in volo, vola dalla finestra, incontra Francesco. Lui la prende per mano e mentre si librano sotto il cielo, le mostra ciò che ha preso nel suo viaggio. Chiara, al posto delle costellazioni, vede il volto di Gesù, di Buddha, di Allah, di altri dei. Volano insieme nel cielo e poi atterrano, ognuno nel suo convento, mentre le stelle cominciano a sbiancare dolcemente. Il ginnasio ad Assisi, già da allora, che tanti anni fa era quasi l'Ottocento, Assisi era un succo del divino, tutto il paradiso in vendita. C'erano frati Boccali, frati Penne, radiofrati, persino frati Vasi da Notte, nelle bancarelle intorno alla Basilica di San Francesco. Ai piedi della collina, a Santa Maria degli Angeli, sfolgora quella cupola bella del Vignola, come dice Carducci, e Francesco morì nella Porziuncola, che era allora una minuscola casupola. E in onore della sua semplicità gli hanno retto attorno un tempio babilonese con colonne altissime e in cima una Madonna gigante, un enorme giunone cristiana tutta d'oro con due manone così. E negli anni 50 correva voce che la Madonna si muovesse. Suggestione o realtà, vennero a frotte devoti da tutta Italia. E la povertà di San Francesco, come la povertà di Gesù, hanno fruttato alla Chiesa un tesoro inesauribile. Dov'è Dio? Nel paradosso? La guardiana del faro. Chiese l'amato all'amico: ricordi che io ti abbia donato mai qualcosa affinché tu mi amassi? Rispose l'amico: sì, perché tra gli affanni e i piaceri che mi doni non vi è differenza. Disse l'amato all'amico: tu sai infine cos'è l'amore? Rispose: se non sapessi cos'è l'amore, saprei cos'è tormento, tristezza e dolore? Ah, quando l'amico sarà orgoglioso di morire per il suo amato? E l'amato vedrà mai l'amico consumarsi dell'amore che gli porta? Disse l'amato: il sonno è un sortilegio contro l'amore dell'amico, che dormendo dimentica il suo amato. Rispose l'amico: è un sortilegio contro l'amore dell'amato se l'amato stesso non ridesta l'amico come egli desidera. Di, folle, se non t'amassi il tuo amico, cosa faresti? Rispose dicendo che ugualmente amerebbe, per non morire, perché non amare è morte, mentre amare è vita. Un lume della camera dell'amato illuminò la cameretta dell'amico, affinché, disperdendo nelle tenebre, si riempisse di delizie, abbandoni e contemplazioni. Così l'amico spazzò via dalla sua stanza ogni cosa, perché vi entrasse solo il suo amato. Questi versi d'amore che ho appena letto sono tratti dal libro dell'amico e dell'amato di Raymond Lull, che è uscito per le edizioni Noobs a cura di Federica D'Amato. Io non seguo molto le novità, ma i libri poi arrivano da soli per dei casi fortunati. Era una notte d'estate, mi trovavo nella bella città di Chieti e a un certo punto ho conosciuto una ragazza con questi capelli neri, furenti. Mi parla della sua traduzione dal catalano, il libro di Amic Yamat. e mi parla di Raymond Lull, che conosciamo più spesso italianizzato come Raimondo Lullo, questo sapiente che scriveva a volte direttamente in arabo, conosciuto come alchimista e venerato come beato, che era nato a Maiorca nel 1232 da genitori catalani e fino all'età di 30 anni è stato un uomo di mondo. Poetava come troubadour, aveva ricevuto questa educazione raffinata, componeva canzoni, frequentava la corte, era sposato, aveva figli. E poi a 30 anni si sente chiamato da Dio, ha l'illuminazione e scopre il senso della sua vita, la sua missione. Deve convertire quelli di altre religioni al cristianesimo, attraverso un sistema di pensiero che provocherà una conversione razionale. Così lascia la famiglia, la corte, la vita licenziosa e si dedica a questa missione con un impressionante numero di opere e con una militanza attiva, perché andrà davvero a predicare ai saraceni. Il libro dell'amico e dell'amato è un libro mistico, dove l'amato è Dio e l'amico è l'uomo e rappresenta l'amore fra l'uomo e Dio. Però, come accade in tanta letteratura mistica, basta pensare al Cantico dei Cantici, è perfetto anche a rappresentare l'amore profano. Chiedo alla Capitaneria di Porto di mettermi in contatto con Federica D'Amato, che ha curato questa edizione del libro dell'amico e dell'amato uscito da Nobs Edizioni. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la studiosa Federica D'Amato è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Federica, buongiorno. Buongiorno Barbara. Stavamo parlando di questo libro curato da te, di Raymond Lull, il libro dell'amico e dell'amato. Posso leggere un pezzo della tua prefazione? Tu ti rammarichi che il tempo abbia disperso la potenza dottrinale del libro e relegato il suo status di grandiosa costruzione dottrinale a rango di opera letteraria, puro canto d'amore. Però dici anche, non di meno, l'alterità del testo non esclude una lettura laica. La leggerezza delle immagini, la sua intensità di lingua e sentimento creano luminose affinità con la sensibilità di noi, smarriti moderni. Sì, e io, come accade con tutti i classici. Ma comunque io come smarrita moderna l'ho preso proprio così, alla lettera, come grandi parole d'amore. È un testo d'amore mistico, sono dei versetti che si rivolgono specificatamente agli anacoreti, ovvero agli eremiti, ma che proprio per il mutamento culturale che è avvenuto dal Medioevo sino ad oggi, spoglio di questa dottrina che noi non possiamo più capire, non possiamo più recepire come tale, attualmente parla potentemente d'amore. Raimondo Lullo è un personaggio incredibile, nato a Palma di Maiorca nel 1232, poi ha rivestito tutti i ruoli che la società di quel tempo permetteva, prima educatore e poi si scacco presso il regno di Giacomo II d'Aragona, poeta in giovane età. Poi, dopo la conversione che avvenne in circa l'età di 32 anni, una notte alla Dostoevsky, ovvero Raimondo Lullo sogna di appare per ben tre volte il Cristo crocifisso e si converte. Dalla sera alla mattina il messaggio è talmente forte che comprende che deve abbandonare tutto, ed effettivamente abbandona tutto, vende tutto quello che ha, una parte la lascia alla moglie e ai figli, e parte missionario, quindi si fa francescano, poi mistico, scrittore, filosofo, ricopre tutti questi ruoli, ma con un'eccentricità, tra virgolette. Senza virgolette, credo, Federica, per il poco che so. Eccentricità, sì, io uso le virgolette perché oggi la parola eccentrico ha perduto il suo significato originario, cioè l'eccentrico oggi è colui che vuole essere notato. Raymond Lull incarna proprio l'eccentrico, secondo l'etimo corretto del termine, ovvero colui che ha una propria strada. Comunque era figlio del suo tempo, figlio delle crociate, quindi anche questa attenzione così marcata alla necessità, alla volontà di convertire l'altro da sé, in questo caso i musulmani, proveniva proprio dall'ambienza, dall'area psicologica che si respirava in quel tempo. Certo, Raimondo Lullo anche qui fa a modo suo, in questo discorso subentra la grande modernità di Raimondo Lullo e anche il suo spirito pacifico. Lui cerca di convertire razionalmente, quindi con gli strumenti della parola, con gli strumenti della grande tradizione patristica cristiana. Anche quando si piegò proprio per entrare nella Chiesa, per cercare di rifondare la Chiesa corrotta dall'interno, quando si piegò ai dettami delle crociate, propose agli alti vertici romani una crociata particolare, ovvero i crociati dovevano conoscere l'ars lulliana prima di fendere la spada. Ci parli anche dell'ars lulliana? L'ars lulliana è un sistema di pensiero, no, che dovrebbe servire la, detto proprio così rozzamente, che dovrebbe servire la conversione, che è quella che gli è stata trasmessa da Dio, no? Sì, razionale, infallibile. L'ho sempre vista come una figura eccezionale, come una figura che dovrebbe tornare in vita per insegnare a tutti, insegnare veramente a tutti, non solo la potenza del dialogo per incontrare l'altro sotto tutti i punti di vista, poi soprattutto oggi che viviamo questi contrasti insanabili tra le religioni, ma insegnare l'importanza dello studio. Hai mai creduto di identificarti, di capire? Non tanto in lui in quanto uomo, io mi sono identificata nel testo e quindi forse in lui, perché l'eccesso mistico, l'eccesso mentale mistico che muove questo libro e quindi porta il Raimondo Lullo a parlare costantemente di amore e dolore, era qualcosa che io vivevo profondamente allora, ma non perché ero innamorata di qualcuno, ma perché la giovinezza è lo stato mistico dell'esistenza, è l'incontro con Dio, ma l'incontro con Dio con quale Dio? È l'incontro con se stessi, perché Dio è dentro di noi, noi siamo Dio. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.